Radio Zulci. Sono a casa mia. Ma sei attaccato? Perché? Perché sei più alto del solito. Vabbè, questo è un baracchino. Sì, sempre lo stesso, già lo sai. Come mai sei uscito oggi presto? Non te lo va? Ah, è vero, oggi è sabato. Oggi è sabato, oggi non si travaglia. Gappa. Perché quanto ti sta arrivando quel baracchino? 9:30. Vabbè. Magari col Kenwood è diverso, 9:20, capito? Quando io dico che i baracchini sono baracchini, la radio sono radio, con il capo mi arrivi 9:20, questo è un po' troppo generoso, mi sembra. Sì, vabbè, ognuno ha la sua ricezione, ogni apparecchio pure. Me ne sono accorto, da questo, da tutte e tre cambia la ricezione, da uno all'altro, Vabbè, tieni conto, questi sono dei baracchini vecchi che funzionano, però chiaramente le svitte sono così, dai. Non è che fategli tutto genialone, hai detto, ma è che è? Cappa. Vabbè, non è poco, ne manco 9:20, Ma è buccia di gioca. È una buccia di gioca, no, te l'ho sempre detto. È un ottimo segnale. Arrivi molto, molto bene. Va bene. Intanto se non smette quest'acqua, va la rottura di balle, Lo so, cra. Mamma mia, non me lo dia a me. Sono sempre travagliente con leva. L'altro giorno mi ha detto cosa che gli arrivavo 9 giù, a Muros. Non ho capito, l'altro giorno? Mi ha detto, occhio da rugginito, che gli arrivo 9, mi ha detto. Vabbè, cosa vuoi di più, un lucano? Per me che sono un bel lontano io da lui, me. Non è noi vicino, no. Ma dopo, se faccio il calcolo dei chilometri non è vicino, no. E tu continui a dire, a fare, a modificare. Passa tutto così, va bene. Santiago 9 Muros va benissimo, alla grande. Ma non ho mai fatto la prova per vedere dall'inizio di dove mi sentono. Ancora quella prova non l'ho fatta. Vanno bene, va bene, cavolo. No, adesso sono contento. Ehi, che mi ha più toccato? Da quando ho montato questa? Quella là, vabbè, si è rotto un pezzo. Da quando ho montato questa non ho mai più toccato un'antenna. La lascio così e non tocco nulla. Funziona bene, l'ho ancorata bene, non mi ha dato problemi di niente, va bene così. Cosa devi toccare? Quando una cosa va bene non si tocca. Cosa devi toccare? Se va bene, devi lasciarla così com'è. Io quando una cosa va bene non tocco niente. Io mi sono collegato tutti questi baracchini, questi vintage, li sto provando uno a uno, vanno bene e li lascio stare, ma la prova che sto facendo più che altro per i microfoni, niente di particolare, intanto l'antenna è sempre la stessa, ho deciso di mettere un'altra antenna solo per i vintage, capito? Allora è un'altra cosa, ma c'ho il commutatore che commuta da una scrivania all'altra, quindi già va bene lo stesso. Vabbè. Già va bene, dai. Stavo pensando pure io di prendermi un commutatore, però non mi sono fidato. Mi hanno detto ZG, mi hanno detto che non sono buoni, vero? ZG, anche io ZG faccio. ZG, anche ZG commutatori c'ha. No, io c'ho il commutatore da Rival. Altre vie, ho ordinato da poco, già avevo 15 anni giorno. L'ho collegato e basta. Cos'è ZG? Il contatore deve essere buono, ma tu? ZG sono cagate, no? Non è bigliato, contattore ZG, il contattore Dive, Oxin, ce ne sono tanti buoni, capito? Però un contattore buono lo paghi dalle 50 alle 70 euro, io questo l'ho pagato 40 compreso il trasporto. Sarebbe buono, va bene, dai, per lui ce lo devo fare io, va bene. Capa, me lo stavano imbarcando, la verità non mi sono confidato, perché mi hanno detto che sono una cagata, mi hanno detto, non mi sono fidato assolutamente. Oh, poi se c'hai, mi dirà Gianna vedi cosa ha fatto, poi se c'hai l'ignaretto che ti va il conto PL, sono cacchi tuoi, lascia perdere, contattore vuole buono, per commutare l'antenna deve essere un contattore buono, capito? ZG assolutamente negativo. Tutti che lo dicono così dicono. No, ma infatti non ho più comparato. Preferisco qua togliere il BL e riattaccare. È molto, molto, molto, molto meglio. A me non so che sta andando e non mi crea problemi. Ma infatti, se poi hai la possibilità che ti viene bene a attaccare da una radio, attaccarla nell'altra, vabbè. Capito? Allora vabbè, ancora meglio. A me mi veniva male perché sennò dovevo stare col capo e mettere i piedi. Invece c'è il commutatore nella base principale e commuto i baracchini nella seconda base, capito? E va bene. Capo, una volta ne avevo comprato uno della Proxel, l'aveva comprato Babbo. Tempo che era pesante, bello, bello massiccio era questo. Questo commutatore qua. E anche la Porsche fa delle belle cose. Ma ZG faceva solo buoni alimentatori e basta, qui dal trasformatore. Per il resto qualche strumento ha fatto buono, ma per il resto ha fatto giù gaggatti. Cappa, sì. Lo so. Meglio l'alimentatore cinese, gra. Attento meglio a voi, meglio l'alimentatore cinese. Cioè, ma io comunque l'ho provato un alimentatore ZG e mi si bugiava, eh. Lo credo che ti si bugia. Alla grande. No, non servono a niente, dai. Non servono a niente. Ho fatto dei bei lineareti, delle belle cose, ma in altre cose no, non ho fatto assolutamente niente. Proprio zero sotto zero, capito? Lascia perdere. Va bene. Che ore sono? Cazzo, già le 5 sono. Cappa. Lui a me non c'è tornato ancora da fa'. In commissione, mamma mia. Finalmente a casa, abbiamo recato di pieno di stare in giro. Una giornata di stare in giro? Vabbè, io non so, 6:30, 7, non so che devo andare a prendere aerei al bar. Non so che ora chiudono oggi, ma con questo tempo penso che ci sia poca gente in giro. E poi basta, poi me ne rientro a casa, a domani. Cappa, e mi sono passato la stadì, ma ci ho pigliato giù i secchi per mandare a scuola a guida. E già me l'ha detto. Cappa. Sì, diamo una mano a tutti, a travagliare. No, vabbè, già mi fa piacere la verità. Beh, certo che sì. E anch'io stamattina l'ho accompagnata. Perché di solito lei va a piedi, facile a camminare un po'. Se ci stava piovendo, l'ho accompagnata io, infatti ho preso il caffè anch'io lì. Poi ho fatto un po' di commissione, un po' di spese e sono rientrato a casa. A capone la macchina anch'io mi ho un macello. La macchina deve mettere a pagamento, non è che la vuoi buon mezzo carrino. E la macchina deve mettere a pagamento. Infatti lei quest'anno non ce l'ha fatta, perché ha già iniziato, adesso a gennaio fa l'abbonamento. Lì del parchimetro, capito? Almeno non ha problemi. Ma maledetto che è caro, vero Gra? No, per i residenti no. Sembra che siano intorno ai 250 euro all'anno, una cosa del genere, 500 euro all'anno. Minchia, non è poco. Cazzo, mio... Ah, vabbè, all'anno stai dicendo. Al mese so? Quanto sono al mese? Euro da giorno al mese. Ah, fesseria, giorno da giorno. 200 euro all'anno, cosa vuoi che siano al mese? Ma cazzato. I residenti però, se no già costa, già costa. Considera tu che per stare dalle, quindi dalle 7 del mattino alle 8 di sera sono 1,50 euro ora, fate il conto. E così ti crepa, cavolo, ne era 50, così è un peccato, anche alla serata ne ho fatto lo stipendio. Lo so, via Roma, tutte le zone principali costano un bel. Costano un bel, infatti io ce l'ho, ero andato la salva lì, a Manolette, diciamo, per i residenti abbiamo delle tariffe speciali, visto che sua figlia c'è al bar lì via Roma. Praticamente, insomma, c'è lo sconto all'anno. Adesso lo farà a gennaio, così può utilizzare la macchina, anche perché sicuramente si prenderà un'altra macchinetta piccolina. Adesso vediamo, lei vuole usare la moto, ma non lo so, adesso vediamo. C'è la moto a lungo andare, boccia d'urore, boccia, meglio una macchinetta piccolina, pure un attico zento, una macchina minorita, basterebbe. C'è la moto d'inverno, Iuia, ti va bene d'estate, ma d'inverno è un giramento di balle. Infatti c'è freddo, gennaio c'è freddo, capito? L'estate, vabbè, la può anche usare, ma adesso c'è troppo freddo. No, una Smart, qualcosa del genere, un'altra 600, adesso vediamo. Deciderà lì cosa vuole fare, sono scelte sue, a me macchina non mi riservi. Io già con questa sono a posto, la uso poco per fare la spesa, fare commissione, ma io quando non sta piovendo esco in moto, me la fottino da me. Io il traffico non lo sopporto, me ne fastidio, il tagliente che non sa manco guidare, sempre vrena in golpe, mamma mia, gara. Sì, pensa tu che ho fatto un travaglio che mi devo subire tutto il giorno. Cosa cazzo è? Cioè, cosa annisci? Dio mio santo. E io, che per anni ho fatto il corriere, figurati. Infatti non... Il primo periodo ero dentro Sassari perché ho fatto, vabbè, eravamo ancora poveri, nel senso eravamo in via Catalocchino come sede, poi l'SDA è cresciuta, ma io sono entrato all'SDA quando eravamo tre corrieri, quattro corrieri mi pare, in via Catalocchino. C'avevo Sassari e a volte facevo Predanieta, poi ho detto ma facciamo una cosa, a me dammi qua paesi, mandami fuori città, fuori Sassari, e allora mi hanno mandato Porto Torres, poi c'avevo Sorso, Sennori, capito, tutta quella zona lì, e facevo prima consegnario che quelli dentro Sassari. E dentro Sassari va a essere bravo, perché... Non so, per esperienza io lo so, devi essere bravo o intelligente, devi essere, no, non ne capi bene. Lo so, io già mi sapevo organizzare, però ti ripeto, mi piaceva più andare fuori, perché è un altro mondo, tu, paesi piccoli, giri, fai, ti organizzi, non hai problemi, capito? Invece dentro Sassari devi stare un quattrocci, devi stare. Sì, già lo so, me ne so un po' con cacciate. Purtroppo io lo devo fare per forza perché il lavoro è qua, lì già ci può giostrare un po'. Alcune cioè, vanno a Porto Torres, se vanno in altri posti, vanno. Si può giostrare, ma qua qua devo farlo per forza così il lavoro. E anche alla sera, sei tracco, eh. Anche alla sera, cioè, soprattutto se sono giornate come adesso che c'è parecchio lavoro. Lo so, lo so. Purtroppo è così. Bene, sta andando, sì, questa radio, va bene. Una canuata, ecco. Oh, bene, vai. Ottimo per la truppa. L'importante è che funzioni, poi. Chiaramente non è che posso pretendere molto, ma l'importante è che funzioni bene. La voglia. Ma lo sai che sta cosa per non scalda come il dettaggio? È strano. Ehi, ehi, mi sto aspettando una telefonata. Anzi, l'altro, qui a vedere se già uscito dal lavoro. Devo passare a ritirarmi un'altra radio a casa di un amico. Ma detto 4 metri a 5, 5 metri forse era a casa che usciva dal lavoro. Devo passare a ritirarmi un'altra base vintage. Allora già mi avrei uscito. Caffa. Non ha di amplificatori a buon prezzo? No, no, non è uno che usa amplificatori, no. Qualche baracchino vecchio ne ha tanto. E basta, poi no. Non entra neanche in radio. Infatti me l'ha detto, a me mi ha sentito in radio, stavo cercando dei vintage, mi ha detto guarda che ne è uno molto bello, vieni a vederlo se ti piace, mi ha detto anche il prezzo. Mi ha mandato le foto, tutto beh, sembra bello comunque. Ma allora vieni dopo le 5, 4 e mezza, 5, adesso vediamo. Allora già mi avessi uscito, tanto devo uscire, devo andare al bar. Passo e me lo ritiro. Caffa. Prova a vedere cosa ti dice, vai. Ti aspetti, lo chiamo, avessi uscito a lavorare. Vai, va. Avanti. Ehi, ehi, fra una mezz'oretta a casa, 5 e mezza, posso uscire di casa. Così passo e non la ritiro questa radio, se no poi passo a cavalleria, almeno lo metto a posto qua, ma sistema, c'è già il posto suo pronto, attacco il microfono e proviamo. Caffa, aspetta un attimino qua. Chi sono dai commenti rubai? Guruguru rubai. Ti guadagni il pane, manco di gattera. Ok, avanti qua. Non è intesa una pernacchia? No, magari ci fate la pernacchia, ma qua non arriva. Sì, già arrivi in occhi, non ti preoccupare. È già dell'altro giorno e ti sento questa pernacchia. Io qua non la sento a tu. Sì, è già tra poco in tindigna di che si dice. Ma scusi. E da poi manco di catena che non mi sono accorto io, non so chi è, non riesco a capire. Guarda, vediamo che arriva Santiago 7, arrivi. No, qua non me ne sono accorto la verità, dai. Magari arriva, però era il telefono, me ne sono accorto. Allora prendiamo il microfono e fa vittarsi, naga, ma veramente incredibile, corpone cristiane. Quelli che vagano di papità, con un culo vagano di papità, bravo che ti dica. Sì, vabbè, ma ho capito cosa serve, cioè. La radio è fatta per parlare, possono entrare tutti, opinioni, cose, ci vogliamo entrare, canali non è che li abbiamo comprati noi. Chiunque voglia entrare può entrare tranquillamente, c'è bisogno di fare per macchie, non li compresci. Aspetta che mi preparo a tu, ma volevo ti, sciogo i travattoli. Sì, ok. Ecco da voi va, e tu va bene da go, cioè, fate la pernacchia. Già sono qua. Via. Chi che aveva fatto un sospiro? Non lo so, avanti. Forse quello lì era un altro segnale, era. Era un altro segnale. Ho visto uno che ha fatto. Non lo so, chi è? Avanti. sentito bene, chi è? Non ho sentito bene. Ha fatto torre una berlacchia, ha fatto. Ok. Sì, adesso l'ho sentita, ma arriva Santiago 3. Devo andare. Allora si arriva Santiago 7, più vicino a te. Sì, sicuramente. Sicuramente così. Beh, se non va, lo devo berlacchiare. Sempre piovendo sta, migliora domani il tempo. Così dicono. Vediamo. Ciappa, mi manda l'amicizia, non riconosce nemmeno chi c'è. Cosa, tutti mandano? Mi manda l'amicizia su Facebook e non riconosce nemmeno. Oh, io ho tolto del tutto il computer, l'ho conservato. Non c'ho niente, l'ho tolto. Mi serviva spazio per la radio, l'ho tolto il computer. Poi vediamo. Adesso non mi ha fatto un del computer. Ciappa. Stufati, quanta euro? Vendendo. Ah, io voglio solo il cellulare, più che altro il cellulare. Ehi, anch'io posso usare il cellulare, ma non mi interessa, capito? Ciappa. Ah, no, su. Sto guardando sul mercatino se c'è qualcosa di bello, ma la peggiante con base magnetica e gli ci gialli. Ma di una bicicletta, da reddito, te l'attacchi. Davvero me? Ah, voi praticamente fate molto troppo, capito? Fai, non c'è una peggiante, a voi quella bocca fai cazzo di roba, poi tutta la fate uscire. Sempre vende la girena, ma siamo in piazza in bicicletta, sempre vende la girena. Ma era un po' come un di catena, era questo. Un manco di un tutto era, senza catena. Vedi quanto sta piovendo, cazzo, mamma mia, come questo. Sta piovendo, già lo vedo già qua dal cernaio. Ma non mi invece del manco, lo vengo dalla radio, mi sta stato un guerrero da Santiago 2 a Santiago 7. No, qua già è basso. Però deve essere quel cavolo di fari che c'hai. No, quando piove sente il fruscio dell'acqua, si sente nella radio, mi capite? Ciappa, sei tanto casino fate. Sì, già si sente, però mi adesso ho passato, vedi? Come piove forte e anche il vento si è messo. E vabbè, ma se non va, siamo fatti in biccio. Acceso già, si sta di lusso, però io devo uscire, andare al bar, volevo passare a prendermi questa radio, ma devo fare un paio di commissioni con mia figlia, niente, lascio, vediamo. Ah, poi ti si torna a casa, ti si torna. No, allora io mi tocco, devo andare in banca, versare, a cassa continua, e poi ce ne rientriamo a casa. Ti mando una cosa, ti mando. Cosa te la tua banattare? Cosa mi mandi? I miei ciccioli che te la tua banattare. Fa capodanno, va. Se a te non si può fare niente, mi atto. Non farò manco. Non scendere giù in strada, perché non si può, me. C'è l'ordinanza, un casino, va. Capo, fa un po' da brutto, già si può. No, non si può scendere in strada, capito? Non si può scendere, se alle 10 c'è lockdown, ma ti vai, non si può scendere. Cappa, non si può in strada, lo butto dagli occhi, solo che ne fanno le pagimate da voi. Ma bravo, tu sei grande, cosa mini ciccio, lascia riparare i bicinetti. Dimmi, ti ha giù mandato. Sono grande. Appunto perché sei grande non devi fare più di queste cose. Tanto basi mini ciccioli. Sì, sai, mini ciccioli. Questi sono mamma. Ah, io attuo. che ti devo mangiare? Se no non mi diverto. Cazzo, non ti avevo più una ansura, cazzo. Tutti i pazzi matti, no, che ne sono usciti. Tante, e sciughe. Questo... Questo deve fare cacci in buona bicicletta. Minchia, papà. Oh, yeah. Vabbè. Dai, Antonieri, che io inizio a andare, se no non lo trovo qui a questo. Uscire, pure così posso al bar e mi ritiro mia figlia. Ok, già ci sentiamo dopo, tanto già entro dopo. Adesso mi faccio queste commissioni, poi già ci sentiamo, ok? Ok, yeah. Già te lo posso sentire anche di. Cappa di dormetro, va bene. Sei di bella! E beh, Luca! E beh, manico! E beh, beh, e mu, e tanto. Sì, dai, esce, quindi sto uscendo ad andare al bar dell'aria, poi posso portare quella cosa che mi ha dato stamattina, e poi mi rientro a casa. Già ci sentiamo dopo, Lu, ok? Avanti, Anto. Ciao, Clara, ci sentiamo. Ehi, a dopo, là, io vado a fare merenda, ci sentiamo a frappè. Ciao. Cappa, vai merenda! C'è qualcuno? Circo 10? C'è qualcuno in ascolto? Non problema, adesso godiamoci queste giornate, belle o brutte che siano, speriamo bene. Ah, come l'hai girato? Sì, ma non cambia niente, è simile all'SM10. No, non lo conosco l'SM10. Uguale a Nicchio, uguale, così a gambo, flessibile. Questo dovrebbe essere nero, mentre l'SM8, l'SM6 e l'SM10 sono cromati, capite? Come è proprio lo stesso flessibile dell'MC80. Aspetta, allora, addirittura c'è l'SM50, l'SM30, l'SM50, però di SM10, microfono autoparlante, hanno chiuso Intec. Non lo trovo l'SM10, c'è l'SM50 che è molto meglio, molto più bello dell'SM30 anche. Alla grande, molto più bello, no, ma anche il funzionamento, ci sono molti radioamatori che usano radio intro, ma con questi vecchi microfoni, SM8, SM10, l'SM20 anche va molto bene. Basta che non lo metti nel 756, il 756 c'ha una spinta microfonica allucinante, infatti io l'avevo tolto dal 756, usavo il microfono normale, perché spinge un bel, capito? Ma non mi piace chiamare un microfono palmare, anche se può essere un dinamico, però deve essere da tavolo. No, io nei qua c'ho tutti i microfoni di tavola, tutti, dall'A alla Z, capito? E sono propenso, adesso vediamo se facciamo la connessione a questo Percipson, che è un microfono molto anziano. Adesso va, Rubi, tutti canti la mano, puoi venire la mano sopra. E chi ci rubi TT? C'è anche l'SM25, che è piatto, non so se l'hai avuto, dalla Icom, l'SM25, bruttino però, non mi piace, magari esce bene però, lavati romano, però non mi piace. Questo non l'avevo visto, vedi? Icom SM25, ora ti mando la foto. Allora... Quanto costa questo che mi ha mandato? 267 euro. Ma si può comprare un microfono 267 euro? Cazzo, quando è uscito l'MC90, 245 euro costava appena uscito. Una gaggata di microfono allucinante. Sì, questo della Kevod però, poi com'è? Sì. Guarda che ha fatto anche la Kevod così, lo sai? E non è male, non usciva male. Usciva molto bene. Ma non ce ne danno a provare. Sì, vabbè, tu già vedrai, va, a tutti i dini. Adesso ti mando la foto di questo microfono. Di tu hai ragione. Allora ne abiti tutti chi fa. Fabio, per il bella. Vabbè, Catarella, adesso sto facendo una foto. Andiamo voi a Catarella, attendo. Ti ho mandato la foto. Adesso faccio... Guardatelo a vedere. E lì bisogna mettere il coso, il connettore, capito? Questo non è arrivato ancora. Guarda, è bello mi connetto, ma quanto pesa lui? Un bel pesa. È originale per Chipson. Dovrebbe essere il microfono del Simba. Perché ha lo stesso colore, capito? È il microfono del Simba. A me non ne abititi chi va. Sì, è sempre tutto il microfono. Bello però, molto bello. Ma è cromato o plastica? Ferro, sai quanto è pesante? Ferro cromato, tutto ferro cromato. E poi sale e scende, capito? C'è la rotellina che lo puoi tirare su e in giù. Bello, sì. Ma sembra la plastica la parte di su. No, è tutto ferro, già lo vedrai, tutto ferro. Lì mi ne mettiamo il connettore a 4 e lo facciamo andare col paccio, perché mi ricordo che questi microfoni andavano molto bene, molto forte. E beh, Lugarie, non sei rientrato ancora. Luca, gli è parito. Capito? Quello dovrebbe andare bene col paccio, dovrebbe risultare buono, attivo. Dimmi. Apparato ancora lì, sì. Sono qua, sto a mangiare a te, aspetta. va bene, lasciamo qua. E mettiamo il connettore a 4, ce l'abbiamo pronto, il connettore 2. Ci mette il connettore a 4 e ci prova a fare andare con quella radio lì. Speriamo che vada bene, esce no, pazienti. Beh, però devi provare con la tua voce. No, che funzioni il microfono, capito? Perché quello delle gay va bene. Fortissimo, fortissimo come radio. La radio che non ha mickey gain non spinge molto. Se avessi avuto un mickey gain come questa, guai, capito? Questa spinge perché c'è il mickey gain, il 294 dell'inoidis, capito? È per quello. Per il gain, quello che hai messo il connettore tu, quello va benissimo sul play. È ottimo, non è che spinga molto, però va bene, capito? Però questo microfono, questo è del Simba, SSB50, grandissimo microfono. È tutta la serie lì, anche i Turner, vedi, sono microfoni meglio, vanno meglio di quelli di oggi. Ma guarda Luca, qualità prezzo, questi MB+5, che poi se mi rompo le palle, ne compro un altro, magari un più 4 o un altro più 5 e lo metto al pace. Male male andando, intanto te lo danno già col connettore pronto a 4, al limite c'è solo da invertire il filo, capito? Se non dovesse andare bene a quello, compareggio un altro microfono e metti lo cuore in alto, magari ce ne affrutti. Anche sì. Che qualità prezzo, un cazzo vai a comprare un microfono d'alto livello, ti costa una barca di soldi. Vai a comprare un MB+5, un MB+4, un 60 euro, compareggi nuovo. Esatto. Prego, sta cosa. La tagliina non me la ciacco più. Registrato il break, mi pare. Avanti il primo break, mi sembra Roberto, tu sei. Ehi, io sono qua. C'è Luca, saluta Luca, poi c'è qualche un altro. Cosa? Che vuole entrare avanti? Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Io sono Antonio. Ok, ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. È in compagnia mia di Roberto. Luca Flipper, poi c'è Luca Manicomio e quel Rick se te la va a mangiare il cane. Avanti Flipper. Flipper. Ehi, stavo cercando la taglierina. Ciao Roberto, ciao Antonio. Ehi, ciao Antonio, anche a te. Ma c'è qualche altro che vuole entrare, che forse non sta uscendo, vedo la portante. Avanti chi vuole entrare su 10? Oh, putettini, se vuole entrare entra, se no si arrangia. Avanti a tu. Ehi, KK, ehi, buonasera. Ma sono curioso di vedere questo affare qua, questo, come si chiama, questo microfono. E io tolgo subito la curiosità, guarda. Questo microfono degli anni 70 ed è della linea del Simba, capito? Del Simba, forse tu eri troppo piccolo, no? Anzi non l'hai conosciuto. Antonio, bombolo, bombolo, eccolo qua, te lo sto mandando Antonio. Il Simba SSB50 che io ho avuto è grande abbastanza, una bella radio, ha la M, non ha l'FM, c'ha l'SSB, ma è una grandissima radio. Questo è il suo microfono, completamente di ferro, pesantissimo, pesantissimo, molto molto bello. E suga, ma la verità, non l'avevo mai visto. E Antonio, sul microfono che tu non l'hai virato, capito? Questo è un grandissimo microfono, ma fatto bene, ma soprattutto è pesantissimo, è tutto cromato, molto molto bello. Adesso proviamo a mettere il connettore 4 e collegarlo al patch, vediamo se va bene. Avanti Robert. Ma con quel capretto sta uscendo qua? Io sto andando con l'Inuiti con 294, microfono MB+5, perché? Ma ti stai aiutando alla grande però. Alla grande? No, no, 10 watt sta dando sta radio, Robert. Si sta attenuando qua, cacchio, troppo forte sta andando, signor. E cosa mi dico? Cos'è l'antenna che si è allungata? No, non ce ne ho io lineari su queste radio, dove li alimento? Sono tutti a 220, sono dall'altra parte della scrivania. Assolutamente, non ho alimentazione, non ho alimentazione. Questo è 10 watt, vabbè. E invece tu non stai andando, ma non sia troppo generoso quello lì? No, no, è di 9,60, cioè adesso ti devo attenuare di 20 dB a 9,40, se no stavi iniziando a distorcere. Ah, boh, qua c'è la potenza regolabile, te la posso anche abbassare. si possa abbassare anche leggermente la potenza, quindi queste sono 10, 12 modulati, lo portiamo a 8 watt, così meglio va. No, ti devo attenuare, se no da parte mia sei troppo forte. Ti devo tirare pure 20 dB, se ti a 9,60, sei oltre 9,60 tu. Come faccio a essere oltre 9,60? Luca, da te quanto sta arrivando? Sì, 9,35. Però non ha, quando è abbassato da me non ha cambiato niente. No, assolutamente niente. Non so, ragazzi, cosa volete vi dica? Questa c'ha 10 volte modulati 12. Modulati 12. Se fossi stato col DAC magari sono 30 watt, modulati 35, quasi 40, ma questa c'ha 10 watt. KK. Sono che già fanno scala, Mattese. E cosa volete che vi dica? Allora, in out modulometro, vediamo, RF watt. 15 watt sono, Roberto, 15 watt. Io ho dovuto attenuare perché sennò non riesco a sentirti bene, ti sento distorto. Ho fatto le regolazioni di questo microfono, come va? Troppi bassi c'hai, mancano gli acuti. Sì, mi dai quei bassi a Luca Flipper, vai tu. Dai a me, Roberto, io ti do un po' dei miei acuti. Dici che sono troppi bassi, mi sono ascoltato io con un'altra radio, però non un baracchino, un'altra cosa, con le cuffie ho cercato di fare la regolazione più lineare possibile, questa è quella a orecchio mio. Professore pare. Come? Professore sembri. Perché professore? Guarda invece così, aumentando ancora la potenza, mettendola a 20 watt, se cambia la radio se rimane stabile. A me stai dicendo? E a Luca, a te, la radio è sempre stabile, così a massima potenza. No, il segnale è sempre uguale, non sei a fondo scala qua. Oh, anche da te Luca, ha aumentato qualcosa così, 5 watt in più, va bene lo stesso. Da me è aumentata la modulazione più forte. Ancora più forte la modulazione, il segnale è sempre 9,35. Sì, quello sì, però la radio è più forte. Sì, via. Il secondo 9,4 è, come si dice, fa scintille, fa. E da te, Anton? Ma sa che ti ne varia, e non che è tutta bomba, anche la radio è tutta potenza, però va bene, non ho problemi. Così, ecco qua, dai, la mettiamo così, se no è troppo alta di modulazione, dopo, vai, andiamo bene. Oh, qua, e il patch è arrivato, tio? Sì, arrivato, ritirato oggi, vuoi vedere, te lo mando. Mandamelo, se vuole al mio, ma è in alluminio è davanti. Sì, ferro, sì, dovrebbe essere questo, adesso te lo mando. Non è come il mio, allora? Guarda, è alluminio. Alluminio con il lavanto, cassa marrone in ferro, adesso te lo mando. Ok. Luca, tu cosa stai utilizzando invece? Io, è solito. E cioè? 703. Ah, sempre quello lì, no? Pensavo che ce ne avesse altro. No, l'altro è conservato, l'S9. Guarda, te l'ho mandato, se uguale al tuo, nuovo, fiammante. È nuovo fiammante, adesso abbiamo solo a Luca, devo darle tutto il baravan e mi fa la connessione per il microfono di tavola. Senti questa radio, Robert, se ti piace. Cosa che stai parlando adesso? Questo è un apparecchio portatile, Intech 520 Plus. Oh, bella, mi piace, bella radio, pulita, chiara, va benissimo. Chiappami, sto provando con i suoi watt, lo sto provando. Ah, tu, è la tua voce, meglio dell'altra come modulazione, mi piace di più. Claudio, no, non c'ha niente a che vedere con me, è tutto un altro tipo di radio, probabilmente questo è più vecchio, molto più vecchio del mio. Ma io voglio roba vecchia, non ne voglio di... Se tu immaginati, molto probabilmente sono il primo assassino che c'ha un Constant, se ne sta leccando le dita, Gianni Caprilue, già era scorto. Ciao Gianni carissimo, Ti ho mandato la foto. Io ho procurato tramite Giulio una Fayette Comstat che io non conoscevo. Io conoscevo il 25B e il 35B. Questa è una Fayette Comstat 23 Mark 6 del 1965. Fatti conto. Ma è 23 canali questo, Cla? Sì, 23 canali, sì. Non l'ho mai vista questa radio. Non hai visto questo patch? Le patch ce ne sono mille. È il Comstat 23 Mark 6, lo conosci? Boh, mi pare di sì quello. Quello che c'è sotto che cos'è? Quello è quello che sto montando adesso, l'Inuit 294. L'Inuit 294 base. Quello che mi ha dato Gianni, che abbiamo cambiato il frontalino. Che Luca mi ha cambiato il frontalino, ha fatto un capolavoro, nuova nuova. E quello a fianco al pace che cos'è? Che si vede l'attacco microfonico laterale, che vi maracchino è? Quello è l'Airbex 4082. 40 canali è quello? Quello è 120 canali con le bande laterali. Dell'85 quello è. Sì, e sotto cosa c'è? Quel maracchino grosso che c'è sotto cos'è? Quello è lo standard, 23 canali lo stesso. Anzi, non è 23 canali, è 22. 22 canali. Poi c'è l'Incomstat 23, poi c'è l'Inuit, poi c'è il DAC, poi c'è il Pony e poi c'è il Perception. Ma le panopole forse le hanno cambiate, lo sai, Cla? Bisogna guardare su internet i pomellini. Pomellini di quale? Di questo pace? No, tutto originale. Sicuro? Al 200%, perché? No, sembravano diversi, diciamo, dal... perché normalmente ne fanno tutti in alluminio su questi apparecchi, cioè tutti cromati. No, questo è così, sono cromati davanti e poi c'hanno, all'interno sono neri. La monopolona è del colore della cassa. Aspetta, provo a cercarlo su internet. DX23006, così è. DX23006, sì. Azetta, io dovremmo uscire. Ma c'è una ricezione, a me me l'ha fatta sentire Luca. Ma c'è una ricezione da favola. Mi si assomiglia molto alla ricezione del Pony. Avanti, Luca. Meia. Cosa volevo dire? E tu? Dimmi, Lu. Perché ancora portatili in circolazione per la 27 ci sono? Kappa, questo qua è quello più moderno, uno degli ultimi che è uscito. È l'Intec H520 Plus. Che pensavo che non stessero più facendo di portatili per la 27. Sì che lo fanno. Ah, ti mando la fotografia, ti mando. Hai zitta. È successo un incendio a Sassari. Incendio? Ce l'ho su internet. Sassari oggi incendio al capannone in disuso di... Vediamo, cacchio, adesso te lo dico. Milu, ti ho mandato la fotografia. È bello. Ti sto dicendo che pensavo che non ne stessero più facendo addirittura. Vista la richiesta, la vendita. Bello, sì. Questo qua, tu mi dici la banda, io vado. Bello, bello veramente. Ti segna anche la frequenza, basta. Allo Smith, tutto c'ha tutto. Questo c'è anche il compressore, c'ha. Va bene. Veramente bello. Io ero ancora quelli sempre della Inter che i barrasoni. Questo invece già in coso ridotto, dai. In dimensioni ridotte. Cappa. Oh, ma va bene, guarda, c'è anche un capo particolare che ti faccio vedere com'è fatto, guarda. Aspettalo, ma. Ehi, quello di sotto. Ehi, aspetta un attimo. Ah, sì, Lulu. Sì. Quello dei canali è diverso, sì. Ma non è mai il villaggio visto, Ora, non c'è nessun altro poi sul 10, non è stato nessuno stasera. Stamattina ho acceso, che ero in casa prima di uscire, però non c'era nessuno, infatti ho chiamato un paio di volte, allora mi sono messo a fare le regolazioni al coso, al microfono, alla Dunis. Scappa di Rocero. È poco ventolini accesi, no? Che? Senti l'entrata di questa manopola, Lu. Cosa? La manopola, senti l'entrata. Ah, tu? Non lo so. No, non lo so. Già così. Uia, e ci attendo che tu, gatta, che da un bel che non lo pongo in moto, asciugo un po' il vento, raga. Adesso ho fatto andare un pochettino anche questo, poverino. Ma cosa, non ce l'hai più il, cos'era, il Ranger, cos'era, come si chiamava quello che ci avevate prima, Antu? Quale? Ma la chino c'era tuo padre, quello importante, dai. Il portatile? Importante, quello che spingeva un po' più da normale. Ah, è quello che è stato, l'ha venduto lui. Quello lì ce l'ha, cosa ce l'ha, come si chiama? Ciao Daniele, ce l'ha. Ma l'S9 cos'è? No, non ce l'abbiamo mai avuto noi l'S9. E cos'era? Ricordami, il Cobra, cos'è? No, Rugoso era, l'87 e l'Alfaiette, che c'era un'altra persona. Già sono qua a Sassari ancora, era venduto tutto. No, sto parlando di un altro baracchino, però baracchino grosso, cioè con americano. Non mi ricordo che marca era, buh. Chi subirà ancora? Ruggie che penne? No, no, era un veicolare, non da base. Ma è Galaxy? No, cazzo, era tipo l'S9, un qualcosa del genere. Non abbiamo mai avuto uno di quelle. Adesso non mi viene il nome, il Colt può essere. No, ci abbiamo avuto il Ranger, ci abbiamo avuto altri apparecchi, tipo l'Alan 48, ci abbiamo avuto questo che ho io, questo non si tocca. E poi abbiamo avuto... non lo so quasi, intendi tu. Quello che spingeva forte era l'87, che era modificato, e l'Alfaiette. Forse era il Ranger. Il Ranger non era, c'avevamo di canali, frequenzimetro, quello lì può essere. Sì, è stato venduto quello. Qua a Sassari? Non lo so che fine ha fatto. E poi Luca, ho visto il 450 in vendita. Ti interessa? No, no, non mi interessa, ma è buono, in buone condizioni. Se vuoi ti giro anche un video. È nuovo, nuovo. Ma qua a Sassari è? Sì, però non si può dire di... Non si può dire, dai. No, vabbè, ne avevo sentito parlare un paio tempo fa, non so se sia lo stesso, di uno che stava qua dentro oppure, no? No. Non c'entra niente qua in radio. No, è un'altra persona quella, già ho capito. Sì, quello poi l'aveva venduto lo stesso. E quello diceva nuovo, di una persona di una certa età stiamo parlando. Sì, quello gliel'avevo venduto appunto a quella persona lì già un anno. E questo è nuovo lo stesso? Nuovissimo, nuovissimo. A chi interessa posso girare anche il video della potenza, dei picchi di modulazione, accordatore automatico. Quello non lo so se ricezione è meglio del 440, qualcuno ha detto che è meglio, però sarebbe da verificare. Hola! Claudio! Qui a... Adesso ti faccio la foto col pomellone asciugo. E adesso hai cambiato radio, Claudio? No, sempre la stessa, perché? Diversa, ho un microfono, cosa fa? Tutte robe, sempre uguale, io non tocco mai niente, sto sempre andando uguale, perché ho aumentato la radio. E sembra più forte adesso. Giovedì, non ho toccato niente io, forse le stavo gridando. Vabbè, forse ti stavo dicendo, no, stavo dicendo, il 450 tu l'hai mai avuto, qua? Sì, l'ho avuto tre io di 450. No, dico, ho confrontato perché qualcuno ha detto, qualcuno che aveva il 440, poi ha preso il 450 e dice no, il 450 in ricezione è meglio del 440, ma ne dubito io. Beh, il 450 è tanto una macchina diversa, è un semidigitale, non ha niente a che fare con il 440, capito? Però io preferisco il 440 perché in AM mi soddisfa di più del 450, anche se il 450 va molto bene, però una macchina completamente diversa, è come ricevitore, vabbè, un semidigitale, c'ha una ricezione secondo me superiore. Via, ok, va bene. Mentre quell'altro personaggio, Luca, non si è più fatto sentire. No, infatti manco di questo gli ho mandato le foto, ma cosa? Capite tanto, Massilla e non fa tenuta a voi. No, magari se ti interessa, dimmi, se lo prende lui e poi quell'altro suo me lo prendo, cioè con i soldi che arrivano, quello là si compare già Ghiddo, se è troppo complicato da usare. Via, in parola ancora con quello là, infatti non li pongo più nulla in vendita, adesso. Capito, gliel'ho anche detto. Perché se io si metto la cosa in vendita e poi c'è la gente interessata, tu non mi puoi, ma c'ho la parola con quello, un mese c'è la parola, Allora non me la roba pure in vendita. Mi pare pure un mezzo favoraggio, perché dice stasera lo chiamo e ti faccio sapere per il sì e per il no. Ma ti è passato già 15 giorni. È un pagliaccio, mi pare. Peccato quell'altro che mi avevi detto di quel laboratorio, di quel negozio, forse quello era meglio. Ce n'è uno, mi pare, 750. Non so se ho visto su Facebook. No, già li ho visti anche a 700, 690, però cacchio, sono sempre rischi. A meno che non torno al laboratorio. Privati, voi stanno vendendo un coso, un 690, lo conosci là, il 690? 690 è il fratello del 450 con i 50 mega, con i 6 metri. Praticamente stesso sistema, 140, 680, ok? Poi hanno fatto 450 e 690, uguali, precisi, identici. Sì, infatti l'ho visto, ne stanno vendendo uno 490 euro, nuovo con la colonnina pure stanno dando, nuovo. Potrebbe essere interessante, a chi piace, meglio radio così con lo strumento a LED, no, non mi interessa. Già lo so, sono più belli ad ago, fanno più scena, dai, più istintivo da leggere. Ok, io però mi devo lasciare, devo andare a pigliare i bizzi che le ordinate, sennò poi mi arrivano troppo ghiacciate. Dai, continuate, magari domani mattina se coincide, se c'è qualcuno ci facciamo una chiacchierata. Saluto a tutti di nuovo, Claudio, Antonio, Luca, eventuali qua amici qua in ascolto sul 10. Ciao, buon proseguo, quello ti da parte mia. Ciao Robert, ciao, ci sentiamo le prossime, avanti. Che tocca. Ciao Robè, un abbraccio, già ci aggiorniamo noi, vai tu. Cavolo, questo guerra è metterano stasera, dato per cavolo di uscito. Il tempo è altro, non è dove è uscito, il tempo è. Da quando ho risolto non si sentono più le scariche in questo apparecchio. No, non sento più niente, io stai andando alla grande, benissimo. Sì, capo, perché io ho forzato un po' di spray, cioè un po' di spray è passato tutto, come mi avevate detto. L'ho aperto, mi gioco un boccio di buon'ora, l'ho messo a posto. Ocra! Via. Ma hai la tua spray che ti ha già da te, no? Io un periodo a qualche bucarotto. Lo facciamo andare a comprare lo spray per le stazionarie. GBC. Lo spray per le stazionarie, allucinato. Mi l'hanno detto, dici che cacca bucarotto c'è cascato, è andato a vedere, ne va troppo con natura. Interessante proprio. Vabbè, cioè magari non lo sapeva, l'hanno pigliato in giro. Invece tempo fa so che qualcuno gli hanno detto di attaccare la 220 il baracchino del cimosto. Qualcuno l'ha fatto e dice che devi scendere un pubblici. Pure aver voluto vedere la scena. Non aver voluto vedere attaccare. Cioè che adesso baragure, eh? Ne combinavano allora. Sì, pure un due era pigliato baruncura a qualcuno in passato. Sì, più di una volta. Ce n'era una particolare che era un po' paraculo. Davvero? Lui è. Veniva di Yogi di Carruzzo, caro Antonio. Allora, aspetta che sto tagliando questa cosa. Ma comunque quello della 220 è pericolosissimo, perché allora già lo sai che non è come adesso che i contatori sono sensibili, allora rimane attaccato e scia nei guerre stellari. Me lo immagino, pericolosimi. Io quando ero piccolino con la mia, cioè sperimentando, sai cosa ci ho fatto una volta? Ha già pigliato uno di chi si cava della radio, come si dice, di quei cavi che si usavano una volta, di quelle radio a due cassette, a una cassetta. Sta giù un bocio, c'è dei fichi giù, un motorino di un giocattolo. Ha già attaccato la 220, cazzo, ne copio! Vabbè, vedete? Che prima ero matto, ne combinavo. Una volta è successa una cosa. ho messo una di quelle batterie quadrate. Capito. Quelle batterie a 12 volt. Allora di stereo era, andavano sia a 12 che con la 220 col trasformatore attaccato. E da macchine sabbia di centro quel coso lì, entro lo spinotto lì ha cominciato a darci fumo. Giù mandami un piaggiamare da volta. Tra poco farò io a sapere darmi la televisione. Speriamo un fatto in occhi. Dai, me lo sento anch'io, signore, ci sento domani. Ehi, dai, ci ascoltiamo dopo, magari dopo cena ci sentiamo, ragazzi. Ok. Buona cena a tutti, alle prossime. Ciao Luca, ce la risentiamo. Eppure voglio sentire quel microfono io in questi giorni. Qua, quello che dobbiamo mettere col bacio. Ehi, lo voglio sentire, sono curioso. Tranquillo, tu, ogni cosa al suo tempo, io faccio le cose piano piano. Capito? Adesso per la signora Luca glielo porto, come vedi questo sta uscendo una canonata. No, già va bene. Ma non è da fare, un asciugacappelli tipo anni 80, anni 70. Un microfono di linea è tu. Che cavolo, pochi ce ne sono, non l'avevo mai visto. Chi non ha avuto quel tipo di radio non lo può avere quel microfono, perché era della linea del Simba, capito? Infatti si chiama microfono Super Mode 3 per Simpson, Super Mode 3. Cavolo. È bello robusto, ma allora le cose le facevano come Dio comanda, non è tutta tanto la plastica che tratta la vanno. Sì, non è mondezza tu. Sì, non è che sia mondezza, ma quasi. Sì, che tanto sta lì. Però i PTT lo potevano fare un pochettino più robusto. Fa questi microfoni che sembra che siano un po' robusti. Che si salva un po', però cavolo, e che si trova ancora come tipi di microfoni, ma non penso che i microfoni da tavola ce ne siano più poi molti in giro. Non c'era microfoni molto vecchi adesso, no? Qualcuno ce l'ho io, c'ho anche quello delle gay, non hai mai visto quello delle gay? No, ma dico, come produzione. Chi li produce sono la testa G al momento, microfoni da tavolo. Cioè altri non lo so. Si conferma, la testa G ancora in voga, però. Alla fine siamo anch'io. Vabbè, allora mi sta chiamando mia moglie, le devo friggere. Ci sentiamo più tardi se ci sei, ok? Ok, dai. Che fruscia, avanti. Andiamo a andare, mucchetta. E' bello. Via. Io vado a fare una cenata, adesso vado a mangiare un po' di castagne. Di castagne hai fatto? Bello. Ma dove sei? Al monte? No, giù. Ah, giù. Ma rientrava Claudio? Non lo so. Ha fatto... va, andava la stazionaria, appena di umido, appena di più e poi fare. Va giù a durare Giuseppe, andava. Ehi, se te la mangiamo un po' di castagne, no? A frappi. Sì, a capa, forse è chiaro. Già ci sentiamo dopo, ragazzi. Sì, ok, claro. Ci sono i tornelli. Vai, non c'è problema.